Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Allora, durante la conferenza stampa a Washington, dopo l'incontro tra Obama e Berlusconi, che era il secondo leader europeo dopo Brown ad essere ricevuto alla Casa Bianca, durante la conferenza stampa si è parlato prevalentemente di Iran. Lo credo, 7 persone uccise è una strage. Le divisioni nell'establishment iraniano, anche quelle recentissime dell'ultimissima ora, lì Larijani contro il ministro dell'interno, sono patenti. Il ruolo stabilizzatore di guida degli ayatollah vacilla. Devono discutere col capo dell'opposizione come evitare bagni di sangue. E d'altra parte, ieri c'è stata a Teheran la più grande manifestazione dal 1979, anno della rivoluzione, rivoluzione fatale che ha cambiato la storia del mondo, che ha reintrodotto la teocrazia e rilanciato l'Islam radicale, e che con la crisi degli ostaggi comportò la sicura caduta di Carter e l'avvento al potere di Ronald Reagan in America. Ce n'è di roba, eh. Tenete conto che poi oggi a Teheran ci saranno di nuovo centinaia di migliaia di persone in piazza, questa volta in appoggio ad Ahmadinejad, il capo radicale al quale è stato dato il mandato di gestire questa rivoluzione nella forma dell'espansione politico-militare, potere nucleare, influenza regionale, minaccia verso gli equilibri del Medio Oriente e dunque verso gli equilibri del mondo. Per non dimenticare poi il fatto che Ahmadinejad è l'uomo che ha proclamato alto e forte che bisogna cancellare Israele dalla faccia della terra, ed è il mandante degli Hezbollah in Libano e di Hamas nella striscia di Gaza. Non so se mi spiego. Quindi quello che sta succedendo a Teheran è della massima importanza e noi oggi ne parleremo sulla scorta del giudizio che daremo a proposito dell'incontro tra Obama e Berlusconi. Incontro che è andato bene, mi dispiace per quel bambinone di Zucconi, Ierode si dice a Roma, me lo ricordava Christian Rocca in una mail da Washington. Ierode non può accettare il fatto che ci sia una routine diplomatica di qualità, che Berlusconi sia andato all'incontro con la Casa Bianca armato anche per conto dell'Unione Europea e come capo del G8 di una proposta costruttiva sull'Afghanistan, cioè un rafforzamento del contingente italiano che si porterà dietro presumibilmente un rafforzamento, come chiedono i militari, come chiedono coloro che quella guerra devono combatterla, degli altri contingenti europei. E poi si prende i detenuti di Guantanamo. Ieri avevamo qui Maroni che diceva che era una brutta cosa, ma aggiungeva con un certo realismo il ministro dell'interno che tanto poi se li prendono gli altri, con Schengen questi possono andare dove gli pare, quindi poi alla fine è un fallimento complessivo dell'Europa nel prospettare una soluzione agli americani che chiedono cooperazione nella lotta contro il terrorismo. Vabbè, insomma, lasciamo stare quel bambinone simpatico di Vittorio Zucconi e i suoi giudizi. Ha persino detto che quando Obama dice a Berlusconi sei un vecchio amico, allude al 24 anni di differenza di età tra lui e Berlusconi, quindi allude alla fatica di vivere, presumibilmente a una incipiente demenza senile del primo ministro italiano. Insomma, Berlusconi è un bambinone pazzo, lo sappiamo, i suoi articoli sono puro colore e di sostanza informativa non ce n'è. Bene, ministro Rotondi, non facciamo l'errore del bambinone Zucconi. Lui ha detto che l'incontro è stato terribile, l'incontro è durato un'ora di più del previsto, sono stati molto simpatici, Obama ha detto che gli piace personalmente Berlusconi, ma Zucconi non è contento finché Obama non dirà a Berlusconi first you have to answer to the questions of Giuseppe D'Avanzo di Repubblica. Però questo non credo che succederà, diciamo, a occhio e croce. Rispondere alle domande di D'Avanzo di Repubblica non è una questione che Obama può porre a Berlusconi. Allora però noi non facciamo l'errore opposto di dire favoloso, grandioso, eccetera. Diciamo la verità, lei è membro del governo, come le sembra che sia andato questo incontro? La dico con cautela perché il Presidente non vuole che di politica estera parlino altri che lui e Frattini, ed è giusto così, è una delle norme di sobrietà che ci siamo dati. E casualmente l'ho sentito ieri al telefono per altre ragioni, era molto soddisfatto, ma stupito. colpisce che solo nel nostro paese incontri, come lei ha detto giustamente, di routine siano attesi come se in un luogo del genere ci si aspettasse appunto una mandata a quel paese o un abbraccio di significato particolare. Sono incontri di routine che confermano, essendo questo il secondo incontro di grande rilievo internazionale che Obama fa ed è riservato appunto a Berlusconi e all'Italia, si conferma una cosa che non dovrebbe poi stupire: la politica estera ha una sua continuità, c'è Obama al posto di un altro presidente, le relazioni internazionali tra l'Italia e gli Stati Uniti restano le stesse, la linea dell'Italia rimane accolta dall'America, che ha un suo senso naturale, storico, della continuità, come la linea di un paese amico che ha svolto una funzione importante negli ultimi anni. E se ci vogliamo aggiungere un asterisco di propaganda di governo, è la conferma che l'Italia torna ad avere una linea di politica estera apprezzata nel mondo e un'autorevolezza che è legata al prestigio di Berlusconi, giovane o vecchio che sia. Beh, doppio asterisco per il governo e per Berlusconi, ma glielo concedo. E la parola al deputato senatore dell'opposizione Nicola Latorre. Come le è sembrata questa, diciamo, tutta un po' la congiuntura, perché è stato interessante che i due abbiano discusso, abbiano parlato di Guantanamo, dell'Afghanistan, cose sulle quali vorrei sapere la sua opinione, e sullo sfondo c'è questa roba iraniana di cui adesso poi discuteremo più approfonditamente perché è veramente importante. Ma intanto nel valutare e nel dare un giudizio politico compiuto su questo incontro è giusto anche conoscere meglio i termini, e penso che li conosceremo nelle prossime ore. Io credo che sia assolutamente sbagliato avere un atteggiamento, come dire, prevenuto come quello al quale lei faceva riferimento con l'articolo di Zucconi. Naturalmente bisogna anche evitare che si suoni la gran cassa del successo, anche perché mi sembrano tutti e due atteggiamenti funzionali ad una vicenda politica interna piuttosto che ad una valutazione oggettiva di quello che è accaduto. Io credo che sia importante che si sia confermato un rapporto di amicizia e anche di intesa anche tra il nostro paese e la nuova amministrazione americana. Ritengo che si siano individuati i temi del confronto e si siano anche messi sul tavolo i temi più caldi. Ci sono due aspetti che considero positivi, e cioè intanto il fatto. Lei è d'accordo sul rafforzamento del nostro contingente a Herat? Io sì, sono assolutamente convinto che bisogna rafforzare questo contingente, accompagnando questa scelta con un'iniziativa politica tesa, diciamo, a seguire entrambe le strade, cioè quella di un rafforzamento della presenza militare e quello di un rafforzamento dell'iniziativa politica. Dicevo che ci sono due fatti positivi. Il primo, la decisione, peraltro una decisione che era condivisa dall'Unione Europea, di prendere questi prigionieri di Guantanamo, che è una testimonianza anche di condividere l'iniziativa americana su questa questione. E il punto è, se posso fare una sola osservazione, è che io credo che Berlusconi continui a immaginare le relazioni internazionali e anche a consolidare le relazioni internazionali utilizzando un'arma nella quale peraltro lui è assolutamente maestro, quello di cercare di intensificare, di costruire un rapporto personale, e invece si trascura la necessità di incarnare una idea di politica estera compiuta, che mi pare dalle prime battute non si coglie. Però scusi, voglio dire, un limite che non è solo italiano. Senatore, c'è una cosa però, invece volevo porre il problema a pane bianco, che è questa. Berlusconi ha corso anche dei rischi, soprattutto durante la crisi georgiana, perché ha fatto da ponte con la Russia in una forma un po' troppo amichevole, così è stato giudicato da parte di alcuni importanti esponenti della comunità internazionale, Casa Bianca compresa, sono un po' troppo amichevole verso Putin e le sue scelte anche di intimidazione politica planetaria, diciamo, ecco, la guerra in Georgia questo significò. Allora, adesso che abbia avuto questo riconoscimento con Obama, che gli dice Berlusconi può essere un buon consigliere per me, che devo andare a Mosca, Obama andrà a Mosca, sarà un grande incontro importante ai fini, diciamo, del giudizio geopolitico generale sul futuro, e ha detto lì alla Casa Bianca in conferenza stampa sono stati utili i consigli di Berlusconi. Pane Bianco, questo un pochino va contro la diagnosi che a tutta prima io mi sentirei di condividere del senatore Latorre, che dice troppo personalismo, troppa umanità nella politica estera di Berlusconi e troppo poca sostanza diplomatica. In realtà su questa storia della Russia l'ha azzeccata. Beh sì, diciamo così, questa è una fase di in cui la politica internazionale è in grande movimento, dopo naturalmente andremo a parlare del caso dell'Iran, e anche l'amministrazione Obama ha il problema di mettere a punto le sue posizioni in questa fase. È evidente che per esempio la sconfitta che l'amministrazione in questo momento esce sconfitta dalla vicenda iraniana e dal risultato delle elezioni. Aveva teso la mano e dall'altra parte si è risposto col pugno chiuso. Lo stesso discorso vale nei confronti della Russia. Anche qui Obama ha scelto una linea diversa dal predecessore, e in questo caso certamente il ruolo dell'Italia, che sappiamo insieme alla Germania è il paese più vicino alla Russia in questo momento, diventa utile, diventa oggettivamente utile. Qual era il problema di Berlusconi? Il problema di Berlusconi è che se le relazioni tra Stati Uniti e Russia migliorano, allora siamo nel clima pratica di mare sostanzialmente, no? Governi europei. Scusi, faccio una piccola precisazione. Sì. Pratica di mare, il luogo dove si svolse un vertice. Durante il primo quinquennato di Berlusconi, sì. Sponsorizzato, sostenuto, promosso da Berlusconi, che in qualche modo, diciamo, addirittura inserì in una forma naturalmente laterale di fiancheggiamento la Russia in un concerto NATO. Ecco, sì. Quindi una roba di avvicinamento della Russia all'Occidente piuttosto importante e sostanziosa. Esattamente. Prego, mi scusi professore. Ecco, sì, no, certo, precisazione doverosa. Dunque, se si torna a un clima del genere, allora è evidente che gli Stati Uniti hanno bisogno di governi come quello, certo, italiano e tedesco, certo, nel rapporto con... Naturalmente, se invece anche in questo caso la mano tesa di Obama non ha dall'altra parte una risposta analoga, se si torna a una situazione di tensione, Berlusconi, ma anche la Merkel per questo, si trovano immediatamente in difficoltà. Benissimo, nel blocco, diciamo, del dialogo internazionale sulla linea Obama, noi abbiamo qualcosa da perdere come utilità marginale, come importanza, sì, ai fini. Bene, è tutto molto chiaro, ma vorrei sentire il parere di Daniele Bellasio su tutto questo, e in particolare su questo sfondo drammatico, tragico, 7 persone uccise, sono 7 persone uccise, diciamo di questa meccanica rivoluzionaria che si è rimessa in piedi in Iran. Tra l'altro volevo dire che domani sera a Piazza Farnese ci sarà una manifestazione promossa dal Riformista e da Radio Radicale, alla quale mi associo volentieri, e sarà una manifestazione in sostegno dei diritti democratici degli iraniani. Ma intanto, diciamo, per valutare le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e gli altri paesi, c'è sempre un metro di paragone molto semplice, anche se vogliamo un po' ingenuo. Gli americani ragionano: se tu mi aiuti a risolvere un problema sei un mio buon alleato, se tu mi ostacoli la soluzione di un problema sei un cattivo alleato. E Berlusconi in questa occasione ha portato due fatti concreti sostanziosi ma anche simbolici, come appunto il rafforzamento del contingente a Kabul, cosa che gli americani chiedono da più di un anno in sede NATO e che non è stato concesso con la precedente amministrazione, sebbene si dicesse che fosse ancora più amica dell'attuale governo italiano, e appunto l'arrivo dei 3 prigionieri di Guantanamo. In più, per quanto riguarda la Georgia, l'Italia si trova in una posizione pericolosa e rischiosa, non c'è dubbio, nel rapporto con Putin, ma è anche vero che anche all'amministrazione americana serve qualcuno in grado di telefonare telefonare a Putin anche nei momenti di maggior tensione tra Putin e l'Occidente, e Berlusconi ha dimostrato in quella particolare crisi di poter svolgere questo ruolo anche per conto dell'Europa e indirettamente quindi degli Stati Uniti. In più ricordiamo anche il problema Fiat, perché il dossier Fiat è stato per Obama il primo grande problema di politica industriale che ha potuto risolvere anche in rapporto con una grande azienda italiana, in qualche modo con il sistema italiano. Per venire allo scenario iraniano, mi pare che si possa dire che viene un po' a compimento oggi una conseguenza della linea di politica estera della precedente amministrazione, ovvero le sanzioni in Iran hanno provocato uno smottamento nell'equilibrio tra le quattro componenti che ci sono nel paese degli Ayatollah, che sono la componente dei religiosi più duri, la componente dei religiosi moderati, i militari e il bazar. Fino all'amministrazione Bush queste quattro componenti erano abilmente, come dire, distribuite nel potere iraniano sotto la regia di Khamenei. La forte pressione portata dalle sanzioni ha provocato problemi economici in Iran tali che queste quattro componenti non hanno più trovato il modo esatto di spartirsi la torta, il modo esatto di continuare a sopravvivere in questo clima, da rivoluzione islamica permanente. E così si sono disalleate e ricomposte in due schieramenti opposti. Da una parte ci sono i religiosi più duri, alleati con i militari, dall'altra i religiosi più morbidi, se così si può dire, alleati con il bazar. Questa conseguenza avviene oggi nel momento in cui l'amministrazione Obama provava a tendere la mano del dialogo. Il problema è che l'interlocutore, che fino a poco tempo fa era unico e saldo, in questo momento invece non esiste più, o comunque non ha più la solidità di un tempo. Sì, infatti la questione da cui ripartiremo dopo la pubblicità è che tutto nasce anche da una proposta non raccolta, lo diceva prima Rotondi. Obama ha fatto un avance e non è stata raccolta. Insomma, se avesse vinto Mousavi, tutti oggi diremmo, Obama col discorso del Cairo ha ottenuto un grande risultato, perché in fondo si è rovesciata la situazione a Teheran, anche se Mousavi è anche lui un negatore dell'Olocausto, è uno dei guardiani, diciamo, della rivoluzione islamica, non è certo un antiregime, ma insomma si sarebbe aperta una dinamica, diciamo, tra mille virgolette, liberale. Fabio da Udine. Sì, pronto. Eccomi. Buongiorno. Mi sente? Buongiorno. Buongiorno, sentiamo benissimo, vada. Benissimo. Niente, volevo intervenire sul ruolo che dicevate voi prima di Berlusconi come trend union fra amministrazione Obama e la Russia di Putin, tutto sommato, perché sappiamo benissimo i rapporti di amicizia personale tra il primo ministro italiano e il primo ministro russo. Sì. Secondo me anche molto buoni anche quelli con Topolanek. Abbastanza, ho visto. Secondo me, appunto. Scusi, per mettere un po' di colore nella trasmissione. No? Ah, vabbè, tanto di questi tempi, colore più, colore meno. No, perché c'è Stefano da Milano che dice che non devo polemizzare con Zucconi, adesso ci parlerò. Vogliono che faccia una trasmissione noiosa. Io, tanto ormai c'è solo una settimana. C'è un'area di serietà abbastanza da Ayatollah iraniani in giro. Ritornando al discorso. Vabbè, ci dica il trade union tra Stati Uniti e Russia. Appunto, secondo me è un'ottima opportunità per l'amministrazione Obama, con il pragmatismo che contraddistingue appunto gli americani, sfruttare, diciamo, queste capacità di Berlusconi di porsi come mediatore, anche se lo fa in una maniera che esula dalla diplomazia classica. Veniamo al sodo, quindi buoni rapporti fra Stati Uniti e Russia con la mediazione europea, italiana e i consigli dell'Italia sono una buona cosa. Va bene, grazie Fabio. Grazie, buongiorno. Grazie Stefano, che vuole che io faccia una roba noiosa tutta in gingheri e in polpe. Prego Stefano. Salve Ferrara. Salute. Allora, ma guardi, io mi piacerebbe una cosa. Sì. Che lei una volta facesse quello che sa fare meglio anche dall'altra parte, cioè il sofista. Sì. Cioè, lei ha fatto un attacco così senza pudore, secondo me, a Zuccone, però lei lo chiama colore, per me è spudorato, perché si vanno a toccare certe cose che Ma non ho mica fatto un attacco personale, ho criticato un suo articolo che mi sembrava particolarmente fazioso, non era mica personale, non, io non faccio attacchi, non ho fatto 10 domande a Zucconi. Non è personale dire, non ha valenza giornalistica quello che scrive un giornalista. No, non c'è sostanza di informazione, se uno di un incontro che è andato bene evidentemente, perché i due si sono piaciuti o almeno hanno... Parte sua, ma che cosa aspettava? Che Obama prendesse attestato Berlusconi, ma è chiaro che... Io no, ma Zucconi sì, se lo aspettava, infatti siccome non è successo gli erode, scusi, no guardi, su questo non può vincere perché i nostri ascoltatori possono leggere l'articolo di Zucconi al quale sto facendo una immensa pubblicità tra l'altro, su Repubblica, capisce? E comunque io se Zucconi volesse prendere il microfono per un confronto su come si informa sull'America e sui rapporti tra l'America e l'Italia sarei disponibile in qualunque momento, lo dico perché nella scheda è scritto Zucconi non è presente, vabbè, ma insomma è un amico, anche lui fa le sue polemiche, poi dorme a quest'ora, c'è il fuso orario. Vabbè, senta Ferrara, guardi... Ma lo sai che lei parla come Maurizio Milani, c'ha lo stesso timbro di voce? Lo vede mai Maurizio Milani in televisione? È fantastico. Va bene Stefano, e ognuno rimane delle sue opinioni. Comunque grazie per la cordialità anche del dissenso. Torniamo alla questione iraniana. Pane Bianco ha scritto un libro che è appena uscito che si intitola L'automa e lo spirito, azioni individuali, istituzioni, imprese collettive. È un libro specialistico del Mulino, di un grande accademico come Pane Bianco, di un grande professore di teoria politica e di relazioni internazionali. Ma la domanda è meno specialistica. A Teheran non sta succedendo una cosa normale, ma una cosa straordinaria, cioè si ripropone 30 anni dopo lo schema, diciamo, del confronto tra fazioni di un processo rivoluzionario, cioè è una meccanica, una dinamica di una rivoluzione. È diverso da quello che succede nelle democrazie stabilizzate o anche nelle dittature laiche. Saddam Hussein non aveva fatto nessuna rivoluzione, aveva preso il potere. Invece lì c'è una rivoluzione. Prima Bellasio ci ha descritto le quattro componenti, la società che si divide, gli studenti, i giovani, le donne, che sono sempre grandi protagonisti in questi momenti. Ecco, lei che appunto... come dire, è un esperto di teoria politica, cosa si può dire sul senso e anche sulla pericolosità di un paese così grande, così importante, così pieno di petrolio, così importante perché è un paese sciita che comunque ha una funzione nel mondo islamico molto radicale? Cioè, cosa si può dire della rivoluzione iraniana come si presenta in questo momento, con la gente di nuovo in piazza, come si dice, i mullah gli uni contro gli altri, e tutta la discussione è nucleare sì, nucleare no, pace o guerra con l'Occidente? Dunque, intanto premesso, io non sono un esperto di politica iraniana e quindi quello posso fare qualche osservazione molto generale. È chiaro che il popolo in piazza può avere un impatto sul regime solo se appoggiato da fazioni del regime stesso. Questo purtroppo lo abbiamo visto in tante circostanze, ricorda il caso della Birmania, i monaci, il popolo in piazza, ma il regime non si divise, i generali rimasero compatti e quindi dopo scattò la repressione e non ci fu nessun cambiamento. Qui sembra, ma ripeto dall'esterno, guardando come da non le do, esperto... Le do una notizia in diretta, arrestati sì. Due riformisti vicini a Khatami, l'ex presidente, il predecessore sì. Di Ahmadinejad, si chiamano Khajarian e Ali Abtahi, sono stati prelevati nelle loro abitazioni prima dell'alba, come si fa nelle dittature. Prego. Sì, qui vuol dire che siamo in presenza non solo di manifestazioni di piazza, ma anche di regolamenti di conti interni al regime tra le varie componenti. Naturalmente l'esito può essere è imprevedibile. La cosa sicura però è che se vince la fazione che sta dietro al presidente riconfermato, ci sono venti di guerra in Medio Oriente, perché vuol dire che appunto il discorso del Cairo di Obama è caduto nel vuoto, vuol dire che il regime mantiene la sua grinta rivoluzionaria dell'origine, vuol dire che punta a una posizione egemonica in Medio Oriente, sciiti contro sunniti, la potenza nucleare, l'appoggio a Hezbollah e Hamas, e quindi mette in difficoltà grossa Israele, mette in difficoltà molto grossa anche l'Arabia Saudita e Egitto, cioè i principali paesi del mondo sunnita. Quindi gli esiti di questo conflitto, sì, all'interno della classe dirigente decideranno sostanzialmente della pace e della guerra, quindi dobbiamo seguirli certamente con grande attenzione. Grazie. Rotondi, lei mi ha messo in imbarazzo prima, Ministro. Perché? Perché ha detto che c'è un divieto espresso di parlare di politica estera per i membri del governo. Allora che devo fare? Che le devo chiedere? Che ora è? Ecco. In generale noi usiamo... Ci viene con me alla manifestazione a Piazza Farnese domani? Lei è un liberale, una persona seria da questo punto di vista, un cattolico. Sì, che fa abbastanza. Ci vengo idealmente, perché domani sera a quell'ora ho il sacco di danza delle mie figlie, che una digestione mia trasformerebbe in una manifestazione analoga contro di me. Quindi vabbè. Lei mi rappresenterà. La rappresenterò. E del resto lei sa che per 9 persone, tra cui il sottoscritto, lei è il Presidente della Repubblica. Sì, lo so. Quindi... Tra l'altro, essendo io Rotondo, posso ben rappresentare Rotondi, battuta un po' da treno, ma insomma che ci sta. Allora, mi dica un giudizio, so che lei deve andare via, mi dica un giudizio su quello che sta succedendo in Iran, perché sta aggravandosi la situazione. È che, come ha detto il professor Panebianco, non spirano certo venti di pace. Naturalmente noi, dal conforto delle nostre democrazie comode, tendiamo a ritenere che i regimi non abbiano loro dinamiche interne, e invece i fatti di questi giorni mostrano che anche in questo caso, più che una dinamica rivoluzionaria, c'è un regolamento di conti tra spezzoni di quel regime, e quindi credo che occorrerebbe una quantità di informazioni che naturalmente non abbiamo e non siamo in grado di prevedere ciò che accadrà dopo. Certo, gli arresti di cui abbiamo notizie adesso mostrano con evidenza questo fatto, e mostrano anche che è in atto un regolamento di conti, diremmo noi italiani, duro. Certo. Va bene, Ministro, la ringrazio molto. Ci vedremo in una prossima occasione, ci sentiremo in una prossima occasione. Sicuramente, sempre con grande simpatia. Grazie, buon lavoro. Senatore La Torre, che facciamo? Cosa, lei alla manifestazione andrà, spero, domani sera, sì. Ma io intanto mi permetto di dissentire dal suo giudizio sul assoluto insuccesso dell'iniziativa di Obama. Io non credo che l'iniziativa sin qui di Obama possa registrare un grande fallimento. Certo, la vicenda iraniana è una vicenda seria e grave, sta accadendo qualcosa di molto grave, ed io credo che innanzitutto per noi in Occidente occorre fare quello che stamattina Rilevi giustamente segnalava come un errore che è stato commesso ai tempi dei dissidenti sovietici, cioè non avere dubbi nel sostenere in ogni forma, in ogni modo, con tutte le forme possibili di solidarietà, la battaglia di quanti lì stanno difendendo. Ecco, a questo proposito, credo, La Torre, ma sentiamo insieme questa telefonata e lei poi continuerà a sviluppare il suo discorso, ma perché arriva a bomba, come si dice. Marco da Milano. Marco. Buongiorno, Ferrara, sono Marco, ci siamo già sentiti una volta. Bene. Io dissento leggermente da quella che è la valutazione sull'effetto di quelle che sono le sanzioni applicate dagli Stati Uniti. Io credo che ci troviamo di fronte a un fenomeno che è simile a quello del 78, quando si aumentava l'influenza di Khomeini. Questo vuol dire che secondo me il bazar non è stato spostato dalle sanzioni, ma sta subendo uno slittamento naturale su uno scivolo dato dalle classi giovanili sempre più frazionarie nei campus, dove si dibattono sempre di più temi internazionali e dove sempre di più si vede e si prende atto di quella che è l'inconsistenza di una posizione radicale, ferma, incapace di esaminare la complessità del mondo. E questo porta i giovani a influenzare quella che è la parte dirigente della del Bazar, che sono le loro famiglie, che grazie. Sono le loro istituzioni, e questo porta allo scivolamento verso... Grazie Marco. Ecco, senatore Latorre, c'è questa peculiarità della società iraniana. La grande maggioranza del popolo è giovane. Sì, sì, la grande maggioranza del popolo è giovane, e accanto a quel qualcosa di grave di cui stavamo parlando e rispetto al quale bisogna assumere in Occidente ogni iniziativa a sostegno della difesa dei diritti democratici, e quindi io non avrei nessun tipo di esitazione a partecipare alla manifestazione a cui lei faceva riferimento. Ciò detto, lì sta accadendo anche qualcosa di, tra virgolette, positivo. Intanto sta crescendo un grande movimento di massa contro il regime, e questo è un dato assolutamente positivo, così come io penso tutti questi, diciamo, discorsi un po' regolamenti di conti, scontri di potere, tutte cose assolute. C'è all'interno delle classi dirigenti e del sistema di potere che governa quel paese, crescono contraddizioni. Guardi, il fatto di affidare al Consiglio dei Guardiani il giudizio sulla validità del voto significa che lì al vertice c'è uno scontro in atto. Sì, tenga però conto che il Consiglio dei Guardiani è per la metà nominato da Ali Khamenei, esatto, la guida della Repubblica Islamica. È per metà. Pure. Eh sì, sostanzialmente. Però c'è una... Così come il fatto che l'ex Presidente della Repubblica abbia sostenuto Mussavi nel corso della campagna elettorale. Cioè ci sono una serie di contraddizioni, certo, che accanto al movimento di liberazione, alla mobilitazione che sta crescendo, sono i due punti sui quali bisogna lavorare perché si apra in quel paese un'altra fase. In questo quadro l'iniziativa che ha assunto Obama, intanto il discorso che ha fatto Obama al Cairo indica una linea strategica di fondo, non è che non indicava una soluzione a breve, cioè indicava una traccia di lavoro, sì, sì. E io penso che la posizione assunta dalla nuova amministrazione americana contribuisca da un lato ad accentuare quegli elementi di contraddizione e ad evitare un ricompattamento di quei gruppi di potere, e dall'altro a sostenere e a favorire la crescita di questo movimento. Mi sembra a occhio e croce un po' troppo ottimista la sua prognosi. Bene, Francesco da Ferrara, per equilibrare l'ottimismo relativo e intelligente del senatore Latorre. Francesco. Giuliano, la mia opinione è che alla fine, come sempre, l'Europa e l'Occidente, che sono un po' vigliacchi in questi casi, se ne staranno tranquilli, zitti, e Ahmadinejad vincerà ancora una volta, e quei poveri disgraziati che sono andati in piazza continueranno ad andare in galera senza sentire la solidarietà del mondo, che è quello che li dovrebbe far vivere. Insomma, grazie con tristezza, Francesco. Grazie, sì, con tristezza. Sì, un altro Francesco da Venezia, opinione convergente. Francesco da Venezia. Sì, buongiorno Ferrara. Buongiorno. Vorrei portare una mia esperienza personale, visto che ho lavorato per, sì, un paio d'anni a Teheran. Tre punti. Il primo, che vorrei dire agli ascoltatori, che Teheran e le immagini che noi vediamo in televisione non rappresenta tutto l'Iran. Abbiamo presente che Mashhad, Tabriz, Isfahan, Yazd sono città dove non ci sono università, non ci sono giovani, sono molto ma molto conservatori. Io penso che in quei posti effettivamente Ahmadinejad abbia preso il 65% dei voti. Primo. La seconda cosa è che la maggior parte degli iraniani, i capi famiglia che hanno il potere economico, vivono di rendita alle spalle di questo governo. Vuoi col petrolio, vuoi con i traffici illeciti e con la Cina, vuoi con le zone franche di Kish, hanno tutti degli interessi legati a questo governo, non voteranno mai per un governo liberale. La terza cosa molto importante che vorrei far capire, visto che io ho lavorato, è un popolo che non ha mai conosciuto né culturalmente né praticamente la democrazia, non sanno nemmeno cosa vuol dire fare una fila. Io spero che vinca Ahmadinejad, perché se portiamo la democrazia come la intendiamo noi in quei paesi, diventerà un paese ingestibile. Bene, bene, si fa per dire, direi male, male ancora con più tristezza. Grazie. Bellasio, non c'è da ridere. No, non c'è da ridere, anche perché tutto ciò secondo me nasce da una scelta che ha più a che fare con la tattica geopolitica che con la democrazia e i diritti liberali. Il Medio Oriente è un posto di pugili spompati dal corpo a corpo con l'amministrazione precedente, dalle sanzioni, da una politica fatta con i muscoli, che ha portato anche effetti positivi, dall'arrivo a Baghdad di una rivoluzione portata dagli aerei americani in un certo senso, e arriva una nuova presidenza, quella Obama, che offre una tregua a questi pugili. E allora i pugili che stanno messi peggio iniziano a dire: beh, forse un po' di tregua, riposiamoci un attimo, siccome l'amministrazione americana ce la offre, ci fa comodo. Per esempio il risultato elettorale che c'è stato in Libano: non c'è stata la straordinaria vittoria di Hezbollah, perché, diciamo così, il ragionamento dell'elettorato, ma anche in parte dell'elite, era: ci conviene cogliere la mano tesa da Obama, così la nostra economia, la nostra società rifiata. Stesso discorso in Siria. In Iran, proprio da questo grande punto interrogativo, nasce la frattura e la meccanica rivoluzionaria di cui parlava lei. Cioè una parte dell'Iran che conta ha detto: attenzione, forse è meglio apparire, sembrare più buoni per cogliere questa mano tesa, allentare le sanzioni, diventare più presentabili, ricominciare a credere in un'economia, anche perché il prezzo del petrolio non ci aiuta più come in passato, piuttosto che continuare in un corpo a corpo pugilistico a testa bassa contro un nemico che non c'è più. Questo è un po' il ragionamento che ha portato a una situazione, paradossalmente, dove l'equilibrio non c'è più, perché la mano tesa offerta da Obama, come si dice con una formula simpatica ma anche molto pericolosa, toglie quell'equilibrio della contrapposizione che c'era fino a poco tempo fa. E nel grande interrogativo del mo che facciamo nei confronti dell'America si innescano queste dinamiche che poi non sono controllabili in certe situazioni. Tra l'altro c'è conflitto nell'establishment politico americano, professor Panebianco. Le notizie più recenti che rimbalzano dal quotidiano di Gerusalemme Liberal Haaretz, e di cui oggi sul Foglio raccontiamo lo sfondo, dicono che Dennis Ross, che è un importante consigliere di Hillary Clinton sul Medio Oriente e che è falco nel senso che accetta ovviamente la piattaforma del Cairo di Obama, ma dice questo grande sforzo e slancio diplomatico deve essere sostenuto dalla possibilità di esercitare la deterrenza politica e militare. Allora, pare che lo vogliano rimuovere, portare al National Security Council e sottrarlo, diciamo, alla sfera di influenza sulla politica estera gestita da Hillary Clinton. Effettivamente non è poco credibile che ci sia oscillazione nel gruppo dirigente americano. Lei cosa ne pensa? No, io penso che sia molto credibile, anche perché questa è la storia della politica estera americana. Il presidente fissa i paletti, definisce le visioni, ma poi sotto c'è un complesso, complicatissimo sistema di governo, anche della politica estera, in cui ci sono posizioni diverse, avvengono scontri, mediazioni, e la politica estera autentica degli Stati Uniti è poi il frutto di queste mediazioni, di questi compromessi, all'interno di una cornice che è fissata dal presidente, e molti di questi compromessi non sono controllati direttamente dal Presidente, ma nascono dal processo molto complicato di attuazione delle decisioni di politica estera. Quindi mi pare del tutto normale e nella storia coerente con la storia della politica estera americana, sostanzialmente. Grazie professore. Ahmadinejad è dalle parti di Mosca, a una riunione del gruppo di Shanghai, nei pressi, nella periferia di Mosca, Yekaterinburg. E si è riferito alla crisi mondiale affermando in una nota dell'ANSA: è finita l'epoca degli imperi. L'epoca degli imperi è finita e non rinascerà. La polemica antiimperialista di Ahmadinejad, che si combina con altre polemiche, alcune delle quali disgustose, tipo quella revisionista e negazionista dell'Olocausto, insomma, una certa presa ce l'ha nella gioventù mondiale. Senatore Latorre, gli imperi no, ma centri di coesione e di raccordo, poli che diano ordine al mondo, servono ancora o no? No, io credo che serva semmai costruire insieme un nuovo ordine mondiale, che questo è il grande obiettivo e il grande traguardo di questa epoca. Io vorrei innanzitutto approfondire approfitto per dire al primo Francesco che ha parlato, diciamo, che guai se l'Occidente stesse zitto, non sostenesse le ragioni di quelli che lì si stanno mobilitando. Io credo che questo è un errore da non commettere. Nello stesso tempo, siccome condivido le considerazioni che faceva il professor Fabio Bianco circa le caratteristiche attraverso le quali, diciamo, si forma e si costruisce la discussione all'interno dell'establishment americano nella definizione della politica estera, tra l'altro questi elementi contraddittori erano presenti anche durante il precedente periodo, sta di fatto che la situazione delicatissima, complicatissima, difficile che abbiamo di fronte è frutto delle scelte che in questi anni sono state adottate, e cioè una condotta politica tesa a, lei sa quanta stima e considerazione ho per lei, direttore Ferrara, ma non ho mai condiviso. Non ne ha altrettanta per Donald Rumsfeld, questo mi esulta, esatto, ecco, mi dispiace. Perfetto, questo mi pare è una sintesi perfetta. Senatore, dobbiamo chiudere. Esportare la democrazia, la guerra in Iraq, sono tutti elementi che hanno consentito alle forze fondamentaliste di prendere il sopravvento, di far quadrato attorno a sé, e invece io penso che questa iniziativa della nuova amministrazione americana, così come si diceva giustamente, i primi effetti si cominciano a vedere, penso a quello che è accaduto anche in Libano, e la speranza che si possa aprire un cuneo entro il quale una nuova stagione può aprire una bene, parte. Speriamo bene. Il tempo è finito, grazie agli ascoltatori, grazie a Rotondi, alla Torre, Panebianco e Bellasio, in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattè, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. A domani, baci.